quello che è successo in questi giorni è già successo nelle settimane scorse. Abbiamo capito ormai chiaramente che c'è un piano di alimentazione di un clima d'odio dentro i quartieri, e tutto nasce dall'assegnazione regolare, tra l'altro, a famiglie rom, ma famiglie rom che sono anche molti italiani, perché sono nati, i figli sono nati in Italia, eccetera, nelle varie zone di case popolari che si liberano. E la cosa che noi abbiamo segnalato e denunciato è il fatto che, se stranamente, puntualmente, laddove sono assegnate a rom, intervengono queste, diciamo, fascisti di Casa Pound a strumentalizzare la situazione. Quello che abbiamo denunciato è questa assegnazione fatta dall'orologeria proprio in campagna elettorale, quindi c'è dietro un'operazione sicuramente che poi, come abbiamo tutti visto, le televisioni, le radio, le dirette, che non fanno altro che alimentare e quindi amplificare questa questione delle assegnazioni e queste manifestazioni razziste contro le assegnazioni rom. Per cui è sicuramente questo è un meccanismo che produce poi automaticamente, no, purtroppo, da parte anche delle persone, i cittadini normali, il problema quando si assegnano alla porta accanto la casa rom. È diventato uno sport nazionale. Però, come volevo dire, c'è una regia ben specifica che nasce, secondo noi, anche all'interno degli uffici comunali. Da quando hanno messo a dirigente degli uffici comunali un certo direttore che è molto legato alla destra, per cui avvengono puntualmente questi episodi. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento è che ovviamente questa questione dei fascisti dentro i quartieri nasce da un problema che è molto più grande, le responsabilità vengono molto più da lontano, cioè la mancanza della gestione delle case popolari, la mancanza dello sviluppo dell'edilizia pubblica fa sì e fa gioco facile a alimentare la guerra tra poveri, per cui assegnano la casa che vorresti metterci tuo figlio, invece vedi che addirittura arriva un nomade, non è questo comunitario, per cui no. E noi stiamo facendo appunto dentro questi quartieri un'opera, tra l'altro noi siamo presenti perché abbiamo storicamente le radici dentro questi quartieri, queste volte anche sono settori che con noi hanno fatto le battaglie negli anni passati, che vengono coinvolti in questo meccanismo, per cui stiamo cercando di spiegare alle persone che questo è un meccanismo che, no, molti di questi, per esempio a Casal Buciato, sono famiglie che vengono dal Borghetto Prenestino, erano dei borghetti degli anni 70, dove venivano a lavorare in Italia, a Roma, dall'Abruzzo, dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Campania, i lavoratori, gli edili a costruire le case, ma non potevano fare la residenza, come gli è questa comunità di adesso, e quindi vivevano nelle baracche perché non potevano affittare. Nelle battaglie che abbiamo fatto negli anni 70, proprio lì a Casal Buciato, abbiamo fatto prendere la casa a questi baraccati, e già da allora, quando dovevano venire i baraccati, c'erano quelli del quartiere che, no, cercavano di protestare, perché quindi è un meccanismo che si sta mettendo classico della guerra tra poveri. Noi invece stiamo cercando di spiegare al quartiere che il problema è la mancanza di una politica della casa, delle della gestione di quelle esistenti, per cui se le case fossero sufficienti sarebbero, diciamo, per tutti. Per cui questo nostro intervento sta limitando, marginalizzando questa azione dei fascisti, che è invece molto gonfiata dai media e dalle televisioni. E a questo proposito volevo chiedere qual è stata la risposta delle popolazioni, e in secondo luogo, il tema abitativo si sta davvero muovendo qualcosa o è solo campagna elettorale? Ma la risposta, diciamo, dei settori più avanzati è quella di ovviamente opporsi a questa strumentalità dei fascisti, e quindi non vuole i fascisti dentro i quartieri, perché sono quelli che quando c'erano i cortei per il diritto alla casa degli anni 70 assaltavano i manifestanti, anche con la Casa Abbiato proprio ci furono anche sparatorie contro le prime manifestazioni dei senza casa, per cui non possono certo rivendicarsi, no, di essere i difensori del diritto alla casa, sono stati sempre quelli che hanno difeso i costruttori, che sono stati, per cui la gente normale ovviamente è indignata di fronte a questa strumentalità. C'è un settore di gente che sono quelli ai quali non vengono da anni date risposte, i disoccupati, chi vive, diciamo anche per rivalsa, in alcuni casi scendono, come si fanno ingannare da queste, però è molto marginale. Tutto nasce dal fatto che non c'è la politica pubblica della casa. Noi in Italia siamo al 3% di edilizia pubblica, la media europea è del 20%, quindi non si costruiscono, si recuperano soprattutto alloggi perché ce ne sono milioni vuoti, non si fa una politica attiva. C'è anche la coincidenza con la crisi economica che sta coinvolgendo nel problema abitativo anche il ceto medio, per cui molta gente sta perdendo gli sfratti, le case, oppure hanno i pignoramenti perché non ce la fanno a pagare più i mutui, e quindi c'è un clima, ovviamente, di fronte al fatto che poi non vengono affrontate, non c'è più interlocuzione, non c'è più chi fa qualcosa per risolvere i problemi. Poi una delle letture è proprio questo: noi abbiamo ieri contestato la presenza del Partito Democratico perché una grande responsabilità ce l'hanno quelli che hanno governato il centrodestra, ma anche il centrosinistra. Faccio l'esempio la Regione Lazio, c'è un piano di casa che noi abbiamo ottenuto nel 2014 con una delibera approvata con un finanziamento di 250 milioni per affrontare un piano di emergenza straordinario, ancora non vengono utilizzati questi soldi, non viene attivato questo, per cui si accumulano le contraddizioni. La destra fa il suo lavoro di attacco a chi è costretto a occupare, a chi si trova in situazioni, e poi fa finta di difendere alcune altre situazioni. È tutta, diciamo, una situazione assurda, ma il problema di fondo è che manca, diciamo, l'intervento pubblico per una politica vera sulla casa. Un'ultima domanda volevo chiedere rapidamente: come è giudicato l'intervento della Raggi che è avvenuta là, però nel senso anche a livello politico, qual è stato il suo ruolo? Ma mi pare irrilevante, perché nel senso che si stanno arrampicando sugli specchi. Fino adesso la Raggi è una di quelle che ha promosso gli sfratti contro, diciamo, gli anziani nelle case popolari, proprio a seguito sempre di quel famoso dirigente che gestisce la politica abitativa in funzione di creare la guerra tra poveri. Adesso si è fatta paladina delle famiglie nomadi e noi siamo contenti da questo punto di vista, però mi pare che più è un problema di contenere l'avanzata di Salvini, quindi è un problema politico tra di loro, che poi un sincero, diciamo, discussione, perché a Roma manca la politica della casa, non riusciamo, anche con questa amministrazione che in parte settori popolari l'avevano vista come elemento di rottura rispetto a quello che è successo negli anni passati. In realtà hanno dimostrato di essere in piena continuità con gli altri governi, con gli altri, per cui credo che sono giochi politici che noi come sindacato non c'entriamo ovviamente, e stiamo molto legati alla popolazione, quindi soprattutto spiegare alle persone che nei quartieri di non cascare nella facile demagogia del Casa Pound e di chiunque comunque strumentalizza questi temi. Noi tra l'altro abbiamo lanciato per il 14 una carovana delle periferie, partiremo da Torre Maura dove è esplosa la prima vicenda sui nomadi, poi arriveremo a Casalbuciato, poi passeremo per gli altri di Tor Sapienza, andremo in Campidoglio proprio per portare le nostre richieste, che sono quelle di avviare una politica vera per il diritto all'abitare.